gridato, giorno e notte ti ho cercato, ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta, nella mia umiliazione, la mia immensa confusione, chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa, sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi, la mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato, nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore. Ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.